Andrea mi guardavo attorno, ti pensavo, pensavo che non so chi ha creato il mondo, ma so che ero innamorato. Siamo stelle, ci vediamo tutte le sere. C'è il momento in cui brilliamo e abbiamo paura di cadere. Se ci pensi siamo foglie, restiamo in aria leggera. Torneremo anche più forti appena finirà la neve. Se ci pensi siamo onde in un mare cristallino. E in mezzo all'oceano immenso spero tu mi stia vicino. Se ci pensi siamo il tempo, se ci pensi siamo il vento in continuo movimento. Se ci pensi siamo soltanto una casualità in mezzo all'universo. Ma se stai con me poi tutto ha un sé, se è niente ha un sé e niente ha un sé. Per Sara che studia fuori sede e per pagare l'affitto porta i tavoli da bere. Lo faccio per Filo che ora vive in Olanda. Lo faccio per Totò e alle notti studia assieme. Lo faccio per Luca che è sceso da Milano apposta quando suo Napoli ha vinto il campionato. E lo faccio per Benny che vorrei si vedesse bello un po' come la vedo io. Il disco è loro quanto mio. Siamo soltanto una casualità in mezzo all'universo. Ma se stai con me poi tutto ha un sé. Se è niente ha un sé e niente ha un sé. Chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato, non so chi ha creato.